benvenuti a 8 Hertz, la seconda puntata. Come avete potuto ascoltare, questo è il jingle, il nuovo jingle, che è stato fatto con un campione tratto da un brano dei Coil, del primo disco, dove a un certo punto parte proprio una frequenza a 8 Hertz, da metà jingle in poi, quindi ci sta che nei computerini, nelle cassette del computer voi non lo sentiate, ma c'è. E dovrebbe in qualche modo influenzarvi. Questa sera l'argomento è un po' spinoso. Si chiama Walk on Water, ascolti spiritualizzati. Cioè cercherò in qualche modo di farvi ascoltare dei brani che possono essere legati alla world music, che sono legati alla sperimentazione, che sono legati anche a sonorità heavy, al folk, a un sacco di cose. Praticamente quello che sto provando a fare è che ho scelto questi brani non perché per contenuto religioso, ma perché hanno a che fare con lo spirito in qualche modo. Quindi sono brani che si possono riadattare a mille motivazioni personali e a mille percorsi delle trame del pensiero, un po' come dovrebbe essere proprio questa trasmissione. Possono ribaltarne il significato stesso della versione originale del brano, e appunto in ogni caso aggiungono nuove forme musicali contemporanee. Abbiamo aperto con un jingle dove vi ho detto che il loop che si sente di percussioni è tratto dai Coil. E proprio legando la spiritualità al jingle, vorrei farvi ascoltare un brano dei Coil live a Bologna nel 2002 al Teatro delle Celebrazioni, dove ero anche presente, e si chiama A Cold Cell. E in realtà sarebbe una preghiera russa dove durante il live c'erano vari filmati curati da Christofferson, che è uno dei Coil, entrambi morti purtroppo, dove veniva fatto vedere un documentario, credo di un carcere siberiano, dove ci sono questi giovani carcerati che vengono maltrattati ovviamente dai carcerieri e vengono privati di ogni tipo di libertà. Se ascoltate bene l'introduzione, John Balance, l'altro dei Coil, fa una bellissima dedica e dedica questo pezzo a tutte le prigioni, tutte le persone che sono state chiuse nelle prigioni fisiche e prigioni costruite dalla propria mente. Beware, beware the black shadow of share. Beware, beware the black shadow of share. This is dedicated to all people who are in prisons, physical prisons, or prisons of their own making. Oh, Abbiamo sentito Cold Cell dei Coil, c'è una parte finale nella quale lui parla, non si saprà mai cosa dice, anche perché a Balance piaceva molto inventare delle lingue mai esistite, o comunque era portatore di un linguaggio che a noi non ci è stato dato. Ritorneranno i Coil nella trasmissione, così come ritorneranno i Current 93 nelle prossime trasmissioni, scusate. Altro gruppo inglese più o meno del periodo dei Coil. Il pezzo che vi faccio ascoltare è del 2006, quindi piuttosto recente rispetto alla loro discografia infinita. È un pezzo tratto da un disco che si chiama Black Ships Ate the Sky. Si chiama Idumea. Idumea in realtà è un inno della tradizione americana del Sacred Harp Singing che si pone tra il 1770 e il 1820 del New England e si suppone siano protestanti. Sono testi che sempre hanno a che fare con la vita, la morte e quello che ti aspetta dopo. In una pacifica apocalisse. È curioso che la notazione del Sacred Harp Singing è molto particolare perché sullo spartito è un incrocio tra la musica modale, quella più antica, e la musica notale. Questo pezzo, nel disco ci sono quattro versioni, mi pare, di questo pezzo, è quello che lo apre ed è cantato da Mark Almond, dal grande Mark, e è proprio il primo brano che secondo me è anche quello più riuscito. And must then my fortune be? Wake by the trumpet sound, I from my grave shall rise and see the Judge with glory crowned, and see the flaming sky, and see the flaming skies. E sto pensando a una ragazza che conosco che oggi ho appreso che è morta. Non mi piacciono le dediche, ma boh, mi sento un po' di dargliela proprio. E la saluto. Metto un pezzo di Cassandra Wilson, che è una voce jazz, come dicono i fighi, delle più note e quotate. È un pezzo tratto da colonna sonora di True Detective, la seconda stagione. Secondo me è bello, oltre alla voce, notare anche un po' la timbrica di questo brano, che è molto ma molto scura. Si chiama Sign of the Judgment e secondo me per il tipo di genere e il tipo di approccio è perfetta. Come out, sinner. Sinner, come out to come. Sinner, come out to come. Run to the road. Hey, run to the road. Hey, run to Lord, the road. It's a sign of judgment. It's a sign of the judgment. It's a sign of judgment. It's a sign of judgment. It's a sign of the judgment. Dark clouds arising. tutta questa energia e convinzione passiamo a un altro un gruppo proprio che non c'entra niente con Cassandra Wilson e che rientra più in qualche modo nella storia della musica pesante e anche pesantissima che sono appunto gli Swans, abbastanza conosciuti, che hanno fatto del nichilismo e dell'aggressività e della ossessività un marchio quasi di fabbrica. Ci andiamo ad ascoltare proprio un brano dell'87 che si chiama Children of God, tratto dall'LP omonimo Children of God. Thank you. tutto questo mantra oscuro e terribile, quasi di un dio distruttore. Passiamo a tutt'altra sensazione, anche paese, perché vi sto proponendo un brano di polifonia bulgara corale femminile. Si chiama Planino Stara Planino, che credo, non sono così ferrato, ma credo che significa tipo il vecchio pastore, quindi si suppone che abbia un tema pastorale quasi, insomma, se si può dire, ma vabbè, mi picchierà qualcuno. Ho trovato questo pezzo in una colonna sonora di un film di Herzog, tra l'altro, che si chiama Encounters at the End of the World, che non c'entra nulla con i bulgari, perché si svolge al Polo Nord, in mezzo agli aci e ai pinguini suicidi. Ve lo faccio ascoltare e poi dopo vi farò ascoltare un altro pezzo che secondo me qualcosa a che fare ce lo ha, ma è del 2005. Intanto ascoltatevi questo. Planino Stara Planino, polifonia bulgara. Stare a planino. ci pensate bene, ricorda anche un po' qualcosa del minimalismo, alla Philip Glass e Crick. Ci farò una puntata in futuro, credo e spero. Però vi volevo far sentire appunto un pezzo che secondo me è simile. In realtà è giapponese, di Kenji Kawai, del 2005, e è della colonna, di un'altra colonna sonora che è Ghost in the Shell, un film, un OAV, che è quindi un film di animazione, che è tutto un discorso sui cyborg che prendono coscienza, un po' quasi alla Philip Dick. Comunque è molto bello il film. E la colonna sonora, se ora l'ascoltate e ci avete un po' di pazienza, troverete degli agganci, per cui dalla Bulgaria al Giappone in pochi minuti. ringrazio gli affezionati che mi stanno ascoltando e stanno ascoltando Radio Wombat o Wombat Radio. Ricordiamo che abbiamo anche un indirizzo di posta che è posta Wombat con la W Wombat, posta Wombat chiocciola insiberia.net. Per cui se volete criticare o se sentite qualcosa di sbagliato, qualsiasi cosa, ci scrivete e noi ne saremo molto lieti di saremo lieti di leggere le vostre, i vostri pensieri quantomeno. Dopo tutte queste pesate metto un pezzo che tira un po' su, di un gruppo attuale che hanno un nome bellissimo, che si chiamano Master Musician of Bookache, ovviamente americani. Loro hanno fatto una trilogia tra le varie cose di Totem, Totem 1, Totem 2, Totem 3. Questo pezzo è tratto da Totem 3 e si chiama Prophecy of the White Camel, Namutar. È un pezzo con una marcata vena indiana, ricorda un po' il Kraut e i Popol Vuh. Comunque loro fanno roba anche molto diversa. Secondo me sono molto molto interessanti, neuronali e psichedelici. di cittadina libera. Metto un pezzo degli Om, che gli Om sono un gruppo che, di cui facevamo parte, un gruppo marcissimo che si chiamavano gli Sleep, che erano un gruppo stoner, sludge. Poi a forza di farsi gli Endlost sono andati in Endlord e quindi si sono dati a una musica sempre più bizantina, come dalle loro copertine, che sono proprio icone sacre. Il pezzo che vi metto si chiama This, è la prima traccia di Advaitic Song del 2012, in cui c'è un mantra femminile ripetuto e ci vai un po' parecchio di fuori. Comunque sono due basse batterie, però via via nei dischi si è intensificata la formazione, almeno a livello di produzione, con tabla e altri strumenti appunto di paesi e di usanze più tradizionalisti. Secondo me è un gran bel pezzo. Poi sì, ci sono un sacco di critiche dietro su questo gruppo e boh, intanto ascoltatelo. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushyavardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiyam Amritatam. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushyavardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiyam Amritate. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushyavardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiyam Amritat. Thank you. eccoci qua, è finita un po' questa cosa santa e andiamo un po' a indagare sul preferito Lucifero. Metto un pezzo di Grant Hart, che ormai è un vecchione, è stato il batterista e anche cantante, scriveva i brani degli Asker Du. Ha fatto un concert nel 2012, no aspetta, nel 2013, che il disco si chiama The Argument, molto bello, che è tratto da un manoscritto inedito di William Burroughs, che è ispirato a sua volta al Paradiso Perduto di Milton, e quindi appunto c'è la caduta dell'uomo visto attraverso Lucifero, insomma. E questo è il secondo pezzo del disco, appunto si chiama Morning Star, che è la stella del mattino, che è uno dei tanti nomi di Lucifero. Still all the light, highest in order's bright. band, eccoci qua. Ascolteremo, andiamo sul folk americano luciferino, e vi propongo King Dude, che ormai ha fatto vari dischi, ha suonato varie volte anche in Italia. Questo pezzo è un classicone suo, tratto da Love del 2011, si chiama Lucifer is the Light of the World. Semplicemente è una canzone semplice, nella quale il gioco sta a proclamare delle certe frasi in certi momenti. Per esempio, cioè, no, per esempio, è così, tipo, tell me what's that light, Lucifer is the light, tell me what's that light, Lucifer is the light, Lucifer is the light of the world. Lo trovo molto bello. Tell me what's that light, Lucifer's the light, tell me what's that light, Lucifer's the light, tell me what's that light, Lucifer's the light, Lucifer's the light of the world. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun, tell me what's that sun, Lucifer's the sun, tell me what's that sun, Lucifer's the sun, Lucifer's the sun of the world. He walked down to the garden, servant said, shall we begin? If God up above wants you so dumb, what kind of devil does that make him? Tell me what's that light, Lucifer's light, tell me what's that light, Lucifer's the light, tell me what's that light, Lucifer's the light, Lucifer's the light of the world. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun, tell me what's that sun, Lucifer's the sun, tell me what's that sun, Lucifer's the sun, Lucifer's the sun of the world. Adam's thorn was upon Eve, he said, woman, you made me sin. He said the true God came down from above, took the stake just to let the light in. Tell me what's that light, Lucifer's light, tell me what's that light, Lucifer's the light, tell me what's that light, Lucifer's the light, Lucifer's the light of the world. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun, tell me what's that sun, Lucifer's the sun, tell me what's that sun, Lucifer's the sun, Lucifer's the sun of the world. God came down from heaven, said, what have you two done? Snake said, if that's the kind of God you're gonna be, maybe heaven ain't so much fun. Tell me what's that light, Lucifer's the light, tell me what's that light, Lucifer's the light, tell me what's that light, Lucifer's the light, Lucifer's the light of the world. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun, tell me what's that sun, Lucifer's the sun, tell me what's that sun, Lucifer's the sun, Lucifer's the sun of the world. Tell me what's that love, Lucifer's love, tell me what's that love, Lucifer's love, tell me what's that love, Lucifer's the love, Lucifer's the love of the world. E nel divagare sulla spiritualità, ovviamente devo mettere un gruppo di amici che si chiamano Bologna Violenta. Il pezzo si chiama Maledetta del Demonio, del 2010, è tratto dal primo disco loro, anzi a quei tempi era da solo, non c'era l'altro devastatore, il batterista, che si chiama Il Nuovissimo Mondo. Vorrei salutarli, vorrei salutare Nicoea e Sandrino, anche se so che uno sarà al bar o peggio a ascoltare musica neomelodica napoletana e l'altro sarà a reggere i muri perché date le scosse di terremoto, perché è di quelle zone lì. So che partirebbero tante bestemmie in Veneto, e sì, in Veneto, l'altro non bestemmia. C'ha altri difetti. Comunque nei loro live si dilettano a osannare Cristo o Satana a seconda della sensazione, a seconda di come gli va. Quindi viva Satana, viva a Gesù, maledetta al demonio. Non fa rima. Questa deve essere maledetta. Questa deve essere del demonio. essere maledetta. Questa deve essere del demonio. Questa deve essere maledetta. Come non poteva mancare un progetto di Justin K. Broderick, ovvero La Mente dei Godflesh, un progetto suo un po' più shoegaze, che si chiama Yesu, appunto legandosi all'argomento della serata, tratto dal primo LP. Prima aveva fatto un EP, l'LP che si chiama proprio Yesu è del 2004. Questo pezzo parecchio lungo, molto endless, si chiama Walk on Water. Il testo sono veramente due frasi, tre. Be there from the summer, be there, be dead from the... queste sono le cose da diretta. From the winter. Quindi, e poi Walk on Water, Walk on Water. Trovo un pezzo geniale. E anche molto malinconico. A lungo, quindi rilassato. Thank you. 8 Hz se te lo sei scordato. C'è lievemente dell'esoterismo in questa puntata. Adesso andiamo un po' al nocciolo dell'esoterismo musicale attraverso un pezzo degli Psychic TV. Per chi non li conoscesse, gli Psychic TV sono un gruppo che agisce da fine 70, primi 80, e nei quali nei primi almeno due album c'erano Genesis Piorridge e Peter Christofferson dei Throbbing Gristle. Questo pezzo che vi metterò è proprio tratto dal primo disco, che è del 1985, che si chiama Forced End of Chance. E questo è il messaggio del Tempio, Message from the Temple. Nacque attraverso proprio Genesis Piorridge, una piccola forma di religione di aggregazione che si chiamava il Tempio della Gioventù Psichica, Temple of the Psychic Youth, o Topi, che poi lui stesso abbandonò dopo qualche anno. Questo pezzo è un po' il manifesto dei principi esoterici del Topi. Sarebbe bello leggervelo tutto, anche perché appunto il brano è recitato da una persona che spiega un po' il principio basilare, per cui se vuoi veramente una cosa, questa cosa accadrà. Ci sono dei passi molto belli, come per esempio di esplorare i tuoi desideri più nascosti, le fantasie, i motivi, gradualmente incentrandoti su quello che veramente ti piacerebbe che accadesse in un mondo perfetto o in una situazione perfetta, scacciando tutte le restrizioni e le considerazioni pratiche, proprio quello che veramente vuoi. Oppure chiediti chi vuoi come amici, se hai bisogno o necessità di lavorare, cosa vuoi mangiare, di quale sessualità hai bisogno, controlla e ricontrolla tutto sempre più profondamente, e alla fine integralo a te stesso, all'individuo. Questa è un po' la chiave per ottenere le cose. The temple strives to end personal laziness and engender discipline, to focus the will on one's true desires in the belief gathered from experience that this maximizes and makes happen all those things that one wants in every area of life. Explore daily your deepest desires, fantasies, and needs, gradually focusing on what you really would like to happen in a perfect world, a perfect situation, taking away all restrictions and practical considerations, what you'd really want. Then, decide to try and do it. The mere visualization of that true goal begins the process that makes it happen. Clean out the trappings and debris of compromise, of what you've been told is reasonable for a person in your circumstances. B. Be clear in admitting your real desires. Discard all irrelevancies. Ask yourself who you want as friends, if you need or want to work, what you want to eat. Check and recheck everything, deeper and deeper, more and more precisely, to get closer to and ultimately integrate with your real self. Once you are focused on yourself internally, the external aspects of your life will fall into place. They have to. Skeptics will say they simply don't believe this psychic process works, but it does. It is the key to the temple. Avete ascoltato gli Psychic TV, Message from the Temple del 1985, che propongono un concetto impegnativo ma anche facile e funzionale forse a qualcosa che hai tu dentro. Siamo quasi alla fine, sei su 8 Hz. Adesso propongo un pezzo dei Test Department del 1995 tratto da Totality, insieme a Kate Jane Garside, che è una signorina che ha fatto vari progetti a seguito, come Queen Andrina, Ruby Throat e Creaming Jesus. Questo pezzo si chiama Gripper, A Lifetime of Knowledge. Sono un gruppo abbastanza importante anche politicamente, perché hanno spinto molto anche sui minatori inglesi. Insomma, una roba da ascoltare e da informarsi bene. Un gruppo storico. Mi sembra qualche mese fa è uscito un libro su di loro, proposto in una libreria di Bologna con tanto di concerto. Ormai sono vecchi e li ascoltiamo molto volentieri in un pezzo house o techno, come hanno fatto anche gli Psychic TV in un certo punto della loro carriera, e anche un po' ethereal. Comunque una scuola. I'm not going to be able to do that. Eccoci, siamo arrivati alla fine. Adesso c'è l'ultimo pezzo, che è un pezzo di Dalek tratto dal suo ultimo album, che si chiama Asphalt for Eden, che è proprio del 2016. Curiosamente si chiama It Just Is, che è una delle frasi, credo l'ultima frase che John Balance dei Coil ha detto nel suo ultimo live, nel quale poi c'è stato tirato su un pezzo nell'ultimo disco che si chiama Apple Naples dei Coil. L'ho trovato curioso, l'ho trovato attitudinalmente vicino. Siamo partiti dai Coil e finiamo un po' con la citazione dei Coil, però da Dalek, che è un tizio che fa rap e hip hop e lo fa nel modo migliore. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo. Vi ringrazio tanto, tantissimo, e ascoltatevi questo pezzo che è una bomba. Just call.